C'era un tempo in cui si avvolgevano i bambini appena nati in copertine arricchite di radio. Sì, proprio l'elemento chimico che oggi tutti sappiamo essere molto pericoloso. Le loro mamme, all'avanguardia, si cospargevano il viso di creme di bellezza radioattive e bevevano con la cannuccia soda atomica e lattina, seguendo la réclame che faceva più o meno così. Zoé, la soda atomica, dona un'energia infinita, come la pila atomica. Erano gli inizi del 1900. Pierre e Marie Curie avevano appena scoperto la radioattività e nel giro di pochi anni si erano diffusi prodotti di bellezza, farmaci e cure a base di radio, che promettevano risultati quasi miracolosi. Il successo fu immediato. Il radio, però, aveva anche qualche controindicazione. Così scriveva lo stesso scopritore Pierre Curie. Sotto l'effetto dei raggi, la pelle si è arrossata su una superficie di 6 cm quadrati, come una bruciatura, senza causare dolore. Dopo diversi giorni, questo arrossamento non era aumentato di taglia, ma di intensità. Il 20° giorno si era formata una piaga che ho avvolto nelle bende. Il 42° giorno l'epidermide ha cominciato a riformarsi dal bordo della piaga verso il centro. E 52 giorni dopo l'azione dei raggi, la piaga presentava ancora su un centimetro quadrato un aspetto grigiastro. Nonostante queste osservazioni poco rassicuranti, i prodotti a base di radio venivano distribuiti alla stregua dei vecchi rimedi della nonna. Persino i medici credevano che questo nuovo elemento potesse curare le malattie più diverse. Queste le parole del dottor Darier, pronunciate durante una conferenza organizzata presso la Facoltà di Medicina di Parigi nei primi del Novecento. Nella mia prima nota rivolta all'Accademia della Medicina, il 6 ottobre 1903, io già affermavo che credevo di essere arrivato a determinare in quali dosi si poteva utilizzare il radio. A partire da quel giorno ho curato un grande numero di malati. Ho avuto sicuramente degli insuccessi, ma era inevitabile e non ho mai osservato la più piccola complicazione, il più piccolo effetto nocivo attribuibile al radio. C'è ancora molto da fare ed è necessario procedere con grande circospezione e una saggia lentezza. Non vi parlerò dunque che più avanti di inalazioni radioattive per curare alcune infezioni della laringe o dei polmoni e di iniezioni sottocutanee o intravenose di soluzioni radioattive dell'assorbimento di polveri radioattive. Esperimenti svolti da Darier risultava che i pazienti con paralisi facciale esposti a raggi di radio guarivano in 24 ore. Il metodo sembrava efficace anche sui malati affetti da nevrosi convulsive. Addirittura, se si applicava direttamente sulle tempie dei malcapitati una capsula contenente sale di radio, i disturbi scomparivano del tutto. Nel 1916 la rivista Le Radium, nata proprio per l'occasione, affermava che il radio veniva assorbito dal corpo umano come la luce solare dalle piante, senza cioè alcun effetto tossico. Negli anni successivi, i preparati a base di radio venivano spacciati come rimedi per curare quasi tutte le malattie possibili, dall'artrite al cancro, dall'ipertensione arteriosa alla cecità. Tra gli scaffali della farmacia si trovavano tuberadina, pomata per combattere la tubercolosi, digeraldina e vigoradina per favorire la digestione e combattere la fatica. Per i ciarlatani questo ampio interesse del pubblico era fonte di continua ispirazione. Da qui la nascita di prodotti di bellezza a base di radio che recitavano così: Toradia, la crema radioattiva antirughe per abbellire le donne. Alle donne sta ora approfittarne, resti brutta chi lo desidera. Geoffrey, che si autoproclamava specialista britannico del capello, annunciava una delle più importanti scoperte scientifiche dell'anno, lo shampoo radioattivo. Radio contro i capelli grigi. Donne, 50 anni e non avere capelli grigi. Stupendo! Caradium ridonerà rapidamente salute, bellezza e il naturale colore alla vostra chioma. Sembrerete più giovani di 10 o 20 anni. Contiene acqua radioattiva. Ce n'era per tutti i gusti, anche in senso stretto. In Germania spopolava il cioccolato al radio con potere ringiovanente e in America il gel contraccettivo radioattivo. E poi fertilizzanti per piante e integratori per animali e non poteva certo mancare la pasta dentifricia, sbiancante ma radioattiva. Arriva il dentifricio Toradia, a base di sali di torio, astringente e battericida. Sterilizza la cavità orale, evita e combatte le gengiviti e previene la carie. rafforza lo smalto dei denti e lascia in bocca una deliziosa sensazione di freschezza per denti più bianchi e integri. Non esiste un bel sorriso senza denti curati, esclusivamente in farmacia. Ma il prodotto di maggior successo era indubbiamente l'acqua radioattiva. Veniva impiegata per gli usi più disparati, nei bagni termali, nelle fontane e addirittura nelle caffettiere. Ancora oggi nel Montana esiste un giacimento di radon, l'elemento che si genera in seguito al decadimento del radio, in cui visitatori che soffrono delle più svariate malattie possono trovare giovamento respirando l'aria radioattiva nelle gallerie della miniera in disuso. Ma quanto c'è di vero in queste proprietà? Marie Curie nel 1934 consigliava l'uso di queste cure, ma avvertiva che la ricerca scientifica in merito era ancora poco sviluppata. La scienziata morì nello stesso anno, probabilmente a causa della lunga esposizione alle sostanze radioattive da lei studiate. Giorgio Cosmacini, storico della medicina, ci chiarisce la posizione della scienza in questa controversa vicenda. Come si sa, i raggi X e le radiazioni ionizzanti sono state scoperte alla fine dell'Ottocento, precisamente nel 1895. E già nei primi del Novecento si sapeva che le radiazioni ionizzanti avevano un'attività lesiva, se naturalmente somministrate in modo incongruo, come ogni farmaco, come ogni presidio terapeutico, conta la dose e la modalità di somministrazione. Alte dosi e una somministrazione concentrata nel tempo, anziché giovare, potevano ledere. Ed ecco perché si aveva un'attenzione soprattutto per quelle che erano le lesioni somatiche, cioè del corpo, che potevano incorrere dall'uso incongruo delle sostanze radioattive o dei raggi X, la caduta dei capelli, l'arrossamento degli occhi, la desquamazione della pelle, e oppure anche degli insulti più profondi sul sistema ematopoietico, sul sangue, creando leucemie, anemie, che qualche volta erano anche mortali. Però una vera e propria conoscenza di quelle che erano le ripercussioni biologiche, non soltanto sul corpo, ma anche sul genoma, cioè sul nostro patrimonio genetico, erano ancora in fase di studio. Si pensi, per paradosso, che in uno dei primi numeri della radiologia medica, del maggio 1914, era comparso un articolo rivelatore della drammatica mancanza nella radiologia di quegli anni delle nozioni biologiche fondamentali relative alla pericolosità delle radiazioni ionizzanti negli organismi in fase di sviluppo. C'era addirittura una indagine radiologica del feto irradiando l'utero materno allo scopo di avere nozioni sulla posizione del feto all'interno dell'utero, una irradiazione del feto, cosa che oggigiorno stride con le nostre conoscenze di radiologia, di tecnologia, di etica medica. Ma ci sono anche episodi molto meno eclatanti. Per esempio, c'era chi credeva che i raggi X avessero un effetto per certi aspetti non soltanto diagnostico ma anche terapeutico, nel senso, noi sappiamo oggi possono guarire lesioni tumorali se usate in modo adeguato, ma venivano usate in modo un po' incongruo. Per esempio, c'era chi pretendeva di guarire l'ulcera gastrica addirittura irradiando lo stomaco. C'erano queste nozioni ancora in una fase, chiamiamola così, aurorale della radiologia, dove alle molte certezze si alternavano grandi dubbi, alle verità numerose abbagli. Ma questo è il cammino della scienza, che è un cammino stentato, non è un cammino rettilineo. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Barbara Galavotti, ciao. Ciao Federico, buonasera a tutti. Senti, noi abbiamo dentro questa trasmissione, adesso parlerà anche fra poco Chiara Albicocco, questi servizi sulla cucina scientifica, che sono molto belli, insomma molto sofisticati, però a me piacerebbe anche riuscire a parlare un po' di cose più tradizionali, di cucina italiana. Tu non hai qualche cosa di scientifico legato a questo? Ma guarda, cucina tradizionale, Federico, ti dirò di sì. Non è proprio italiana ed è anche una cucina tradizionale che io definirei un po' estrema. Però potrebbe andare, Forse potrebbe andare. Vabbè, dai, ne parliamo fra poco. A dopo. Oh, dunque, adesso Chiara Albicocco vi parla del caffè e della scienza del caffè. Sì, Federico, lascia fare a me. Sono tornata perché se gli ascoltatori amano il caffè, si meritano una bella lezione. Sì, una vera e propria lectio magistralis sul caffè, tenuta da Marino Petracco, che è ingegnere chimico e docente dell'Università del Caffè di Trieste, e abbiamo iniziato la nostra chiacchierata proprio dalle origini, cioè dal chicco. Molti non sanno che il seme della bacca di caffè in origine non è commestibile. Decisamente no, anche perché una delle grandi conquiste della razza umana che le ha permesso di dominare il pianeta è proprio il processo di cottura. Senza la cottura noi saremmo ancora condannati a mangiare frutta, qualche noce, qualche insetto o lumachina, e dunque sicuramente non avremo abbastanza sorgenti di cibo per mantenerci in vita in 6 miliardi su questo pianeta. La cottura ci ha messo improvvisamente a disposizione tutta una serie di nutrienti fantastici. Citiamo semplicemente la patata, che da cruda è velenosa e invece diventa uno staple food su una derrata di base per molte civilizzazioni. Il caffè non soffre di eccezioni a questa regola. Il seme di Coffea arabica è una pallina dura che spezza i denti se cerchiamo di sgranocchiarla. Una volta tostato invece succede il miracolo: la sua struttura diventa fragile, leggera, si lascia macinare anche da due pietre, da un mortaio, è semplicemente estratta con un po' di acqua calda che non occorre neanche sia bollente, ne genera una bevanda gradevole che ha l'effetto miracoloso di rendermi vivace, attento, riflessi pronti, umore simpatico e socializzante. Spendiamo due parole sulla tostatura. Mi pare di capire che consta di 15 minuti a temperature molto elevate, circa 240 gradi centigradi. Sì, quella è la temperatura finale di questi 15 minuti di tostatura cosiddetta tradizionale. E del resto una delle più alte temperature della cucina. Forse la bistecca la fiorentina che richiede la fiamma viva per essere toccata, arriva a qualcosa come 1000 gradi, ma già il forno da pane non arriva alla temperatura della tostatura di caffè. Il tempo di tostatura, attenzione, è una variabile molto flessibile. Ci sono casi in cui si tosta il caffè per 45 minuti, altri casi in cui lo si tosta per un minuto e mezzo. Il tutto dipende dall'input di energia, la quantità di calore che riesco a far assumere al chicco è fissata, la velocità con cui la somministro no, però ottengo dei risultati diversi. Se io faccio una tostatura molto veloce, non riesco a arrivare fino al cuore del seme, bruciacchio la parte esterna e lascio piuttosto verdolina quella interna. Dunque mescolo della stringenza metallica con del sapore bruciacchiato. Esistono dei macchinari che lo fanno e sono anzi molto apprezzati perché diminuiscono il calo fisiologico di tostatura, cioè quella perdita di peso che ogni cottura deve obbligatoriamente apportare, no? Sono perdite al camino di gas, e questo vuol dire guadagno di milioni per il torrefattore. Va bene per il caffè un po' leggero alla tedesca, non va decisamente bene nell'espresso, dove tutte queste note leggermente negative vengono amplificate e massimizzate. Altro lato della medaglia: quando andiamo a tostare lentamente, a lungo, con temperature blande e moderate, noi sviluppiamo degli aromi e dopo li distruggiamo. Ahimè, abbiamo sprecato una sorgente di aromi fantastica, che però è favoritissima nel caso della tostatura di caffè molto ma molto difettosi, cosa tipica del paese tropicale produttore, che ha già esportato a noi la parte migliore del suo raccolto e per il consumo domestico in casa deve accontentarsi della schifezza. Quella schifezza che sarebbe imbevibile, se tostata molto blandamente e lentamente, sviluppa gli aromi, poi li perde, ma questi aromi erano negativi. Per cui forse una delle peggiori esperienze che si possano fare è farsi offrire una tazza di caffè in paese produttore, dove ti daranno una bevanda nera, calda, zuccherata, caffeinata, che ti lascia in bocca il nulla. Una volta tostato viene macinato e poi lo gustiamo nella tazzina, che abbiamo visto che deve avere delle caratteristiche particolari, sia la forma sia lo spessore. L'architetto ergonomista ci ha lavorato per mesi. Posso immaginare. Ecco, però la cosa importante forse è l'aroma, che è diverso dal gusto, e poi lei ci ha raccontato che non esiste il gusto del caffè. È vero. È uno slogan particolarmente frappant che colpisce la mia platea e che io vado immediatamente a giustificare per non lasciare equivoci. Il gusto è uno dei 5 sensi classici, importantissimo in tutti i rami della gastronomia, della culinaria, arte. E certamente però il gusto è mal interpretato, perché il gusto del caffè in realtà non esiste, in quanto il senso del gusto è in grado appena di percepire i sapori fondamentali, Dunque l'amaro, il dolce, il salato, l'acido. Non esiste qualcosa come il gusto del caffè se io non lo percepisco per via nasale. E questo non fiutando, bensì semplicemente percependo l'odore, l'aroma di quello che io conservo nella bocca, quel poco che sta in bocca dopo aver deglutito e che viene esalato mescolandosi col mio respiro, raggiunge il bulbo olfattivo e viene interpretato come gusto dal mio cervello impreparato, se vogliamo. Staccare le due cose è quasi impossibile. Ci sono riusciti bene gli inglesi, che hanno coniato una parola adatta a descrivere questa sensazione. In italiano, ahimè, non esiste una parola del genere. Noi abbiamo gusto e odore, o sapore e olfatto. Gli inglesi hanno smell, per quello che si riferisce al fiutare, taste, per quello che si riferisce al percepire in bocca, flavor, che è ciò che il vocabolario dice, la mistura fra odorato e gusto. No, io sono molto più talebano, dico è solo senso dell'olfatto, interpretato in una maniera totalmente diversa, che ci spiazza quando tentiamo di isolarla dal resto. Noi siamo degli esseri sinergici, tant'è vero che tutti i cinque sensi sono coinvolti nell'apprezzamento della tazza di espresso. È tutta una questione di cervello quasi. Assolutamente, addirittura, beh, la vista fondamentale, se la cremina sulla superficie dell'espresso non è giusta, che è una bandiera. Il tatto non è solo punta di dita, il tatto è boccale. La nostra lingua si muove contro le gengive e il palato e fa un'analisi viscometrica fantastica. Gli altri sensi, abbiamo già parlato di gusto odorato, addirittura l'udito. Se io non sento il tintinnio del cucchiaino in tazzina di mattina, non mi sveglio. Non si riunisce l'anima al corpo. Per concludere, mi sembra di capire che esistono anche dei professionisti che studiano, appunto, che degustano la tazzina del caffè, quasi dei sommelier del caffè. Assolutamente. Uno dei corsi che io do come struttura didattica dell'Università del Caffè si chiama proprio Il Sommelier del Caffè. E dopo la scienza del caffè, eccomi qua di ritorno con Barbara Gallavotti. Possiamo parlare di che cosa? Di cucina nostra, tradizionale? No, non forse nostra. In realtà è una cucina anglosassona, in particolare è una cucina tradizionale del sud degli Stati Uniti. Non, di solito non hanno grandi cose. Comunque, proseguiamo. Beh, dunque, si tratta di intestini di maiale. Ti è mai capitato? Sì. Non è il massimo come immagine, comunque prosegui, vai, no, vai. Dunque, sono un manicaretto molto apprezzato, soprattutto nella festa del ringraziamento, poi a Natale, a Capodanno, proprio in questo periodo dell'anno, nei periodi più freddi in cui in genere in cucina si sta con le finestre chiuse. La trippa di maiale. Sì. È che quando fai bollire queste cose, pare che si sprigioni una puzza che in confronto la zuppa di cipolle è Chanel numero 5. Ecco, per qualcuno è un problema serio. Casa, tu dici. Sì, se uno ama questo genere di cosa. I grandi progressi scientifici stanno portando una soluzione a questo drammatico problema. Non riesco a capire quale possa essere. E dunque, uno scienziato giapponese di nome Yasuyoshi Hayata ha fatto uno studio che è stato pubblicato su una rivista scientifica che si chiama ACS Journal of Agriculture and Food Chemistry. Cosa ha scoperto sto giapponese? Puoi cucinare l'intestino di maiale senza ombra di cattivo odore grazie a una molecola che profuma di fiori. Si chiama EE24-undecadienal. Ha un effetto potentissimo. Ora immagina di avere una pentola grande come una piscina olimpica. Dio, che orrore. In cui stai bollendo intestini di maiale. Può capitare, no? Che non capita? Certo, è una roba normale. Poi nel sud degli Stati Uniti lo fanno sempre, certo. Ci metti 10 gocce di questa sostanza ed è fatta. Non senti nessun cattivo odore. Ora ti chiederai da dove viene questa molecola. E appunto. E non è un problema, perché viene dalle foglie di coriandolo, che è un'erba fra l'altro buonissima. Noi la usiamo poco, ma è un'erba decisamente molto buona, che è conosciuta anche come cilantro o prezzemolo cinese. Ecco, immagino che vorrei fare la prova. Beh, oddio, un po' incuriosito sono, si può? Beh sì, basta che tu abbia una piscina olimpica di acqua bollente, poi le 10 gocce di cilantro, si può fare anche in piccolo. E anche gli intestini di maiale si trovano per riempire. Va bene, grazie Barbara, a presto. A presto. Dunque, se voi ascoltatori e ascoltatrici amanti di scienza non avete ancora usufruito dell'iniziativa del Sole 24 Ore Passatempo per l'estate, ovvero dal cinema allo sport, dalle sfide logiche alla lingua italiana, dalla storia alla musica, alla letteratura, al Galateo, sono una serie di sfide per mettere a prova le proprie conoscenze. E sono piccoli libri pieni di domande con le quali si può giocare. Del resto, quali sono le due ragioni principali per cui vale vivere l'amore e il quiz, no? Bene, fra tre giorni, martedì, troverete in edicola con il Sole 24 Ore il libretto di quiz di scienza. Che cosa trovate dentro? Beh, domande di tutti i tipi. Che tipo di essere vivente è un'ala lunga, un uccello, un pesce, un mammifero? Che cosa si intende nel linguaggio medico con il termine petecchia? La mescalina è il nome di una droga celebre perché il suo uso è descritto infatti a veri numerosi romanzi di scrittori americani. Da dove viene ricavata? Dal papavero, dalla pianta della coca, dal peyote? Poi un'altra domanda che troverete: l'insieme dei processi che portano alla formazione di rilievi e catene montuose è definito come? Beh, qui non vi do le tre risposte, insomma sono dei libretti molto agili. Quello di scienza lo troverete in edicola il 23. Oh, naturalmente ci sono le domande, ma ci sono anche le risposte. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Oggi con Paola Rebusco, la nostra inviata a Boston, mi collego io per parlare di... Ecco, l'avrete capito, insomma, parleremo di banane. Ciao Paola! Sì, ciao Chiara! Ecco, ma dovremmo parlare del fatto che le banane stanno conquistando il mondo altamente tecnologico, no? Sì, incredibile il modo in cui possiamo utilizzare le banane oggigiorno. Ecco, possiamo dire anche che le notizie arrivano da ogni angolo del globo. Oggi parleremo un po' di tutto il mondo banane, inteso proprio come tutto il mondo. Parti tu? Partiamo dalla ricerca in Brasile? Sì, che diciamo che è il clou, l'ultima che è uscita, che sembra anche la più interessante. Eh sì, perché sembra che si possa ottenere una nuova plastica dalle bucce di banana. Oibò, davvero? Sì. Non solo dalle bucce di banane, in realtà anche da ananas e cocchi. Sarebbe una plastica molto forte, e leggera ed ecologica, completamente rinnovabile. Ma una di quelle plastiche di cui noi siamo abituati, un po' leggerine, come quelle dei sacchetti dei supermercati, di quel materiale così un po' leggerino? Si parla di una plastica molto forte, che in realtà può essere rigida quanto il Kevlar, che è il materiale di cui sono fatti i giubbetti antiproiettili, per cui è veramente resistente. Vabbè, una plastica piuttosto tosta. Esatto, infatti si parlano di applicazioni per ora nell'azienda automobilistica, per fare paraurti, cruscotti, pannelli laterali delle auto. Ah beh, caspita, la plastica forse è quella più dura che utilizziamo. Esatto, esatto. In realtà in futuro pensano che possa avere anche applicazioni in campo medico, però per ora si limitano all'azienda automobilistica e dovrebbero entrare in commercio nel giro nei prossimi 2 anni. Mi posso immaginare un cruscotto fatto di fibra di banana, insomma, risparmieremo anche nell'arbre magique. A quanto pare. E la cosa interessante è anche il metodo che utilizzano per ottenere, ecco, questo materiale. Infatti. Sì, perché si tratta di cellulosa, ma non quella a cui siamo abituati. Sono delle fibre di nanocellulosa. Cioè, nano, ogni volta che sentiamo nano parliamo di qualcosa di estremamente, estremamente piccolo. E il modo per ottenerla è essenzialmente fare uno stufato di bucce e foglie. Si utilizza un po' tutto il materiale di scarto? Sì, si mettono le varie foglie e bucce, appunto, di questi frutti tropicali in una macchina che è simile a una pentola a pressione. Con l'aggiunta di alcuni prodotti chimici e poi viene cotta più volte e alla fine si ottiene una polvere che è simile al borotalco e con questa polvere si può costruire la plastica. Adeguatamente elaborata, insomma, con probabilmente altri, con l'aggiunta di altri additivi, viene fuori la plastica, quella più dura, insomma, che noi utilizziamo anche per le automobili. E anche leggera, è il 30% più leggera della plastica classica, diciamo. Ecco, e sempre a proposito di frullati di buccia di banana, io ne ho trovato un'altra di queste tecnologie che viene sempre da un team di ricercatori brasiliani che appunto hanno studiato la capacità del potassio, che appunto è noto contenuto nelle banane, di, pensa tu, purificare l'acqua. Cioè, addirittura hanno dimostrato che appunto facendo una sorta di frullato, come dicevi tu prima, di buccia di banana, quindi solo di materiale ancora di scarto, è possibile bonificare l'acqua. Cioè, l'acqua contaminata soprattutto dai metalli pesanti, come ad esempio il piombo e il rame, diciamo che questa poltiglia di buccia di banana tratterrebbe appunto le molecole e i residui di questi metalli pesanti. È una cosa molto innovativa, soprattutto se pensi che le tecnologie che adesso sono esistenti per trattare appunto le acque inquinate da questo tipo di metalli sono molto costose e utilizzano dei solventi che sono anch'essi tossici. E pensa che roba che sarebbe utilizzare veramente quelli che sono scarti vegetali di un frutto che è utilizzato veramente universalmente in questo modo. E quante volte può essere usato un filtro di banana? Guarda, la cosa incredibile è che oltre ad essere molto economico, questo sorta di frullato può essere utilizzato fino a 11 volte, quindi anche molto efficiente nella sua categoria. Però vorrei raccontarti anche un altro aneddoto. Cioè, la buccia di banana ha delle proprietà incredibili, Paola. E io, spulciando un po' su internet, anche sui blog, tu lo vedrai anche in America soprattutto, la banana viene utilizzata anche per pulire le scarpe. Anche per l'argenteria. Ah, lo sapevi già? Sì. Ma tu sai perché? No. Perché il potassio proprio ha queste proprietà appunto di, adesso diciamolo in maniera molto semplice, di catturare appunto le particelle di sporco che si depositano, quindi le parti di ossidazione eccetera eccetera, e quindi semplicemente strofinando la buccia di banana sulle nostre scarpe anche di pelle e poi passandole con uno straccetto avremo un risultato veramente ottimale. Proviamo, insomma. Non quindi viva le banane, bisogna proteggerle, bisogna avere più coltivazioni di banane. Assolutamente sì, perché come tu ben sai sono molto preziose anche per la biodiversità, giusto? Sì, sì, infatti recentemente c'è un centro, un'organizzazione che riunisce diversi stati nel Pacifico, sta raccogliendo più di 1000 varietà di banane e altri frutti tropicali per salvarli dall'estinzione. Nella zona, diciamo, delle isole pacifiche, quelle che noi conosciamo come paradisi, quindi la Polinesia francese, Kiribati, Caledonia, Nuova Guinea. Ecco, e lì ci sono delle banane, in questo caso parliamo di banane speciali, cioè che ci sono solo lì, endemiche. Sì, ci sono delle banane che si chiamano Fei Banane, che tra l'altro vennero dipinte da Paul Gauguin. Ah, niente proprio di meno che. Eh sì, e sono queste banane che hanno una carne, diciamo che giallastra arancione, e tra l'altro sono un'ottima risorsa di beta-carotene, che è fondamentale per la produzione di vitamina A, per cui è interessante salvare queste banane non solo per la biodiversità in sé, ma anche perché è importante per l'alimentazione della popolazione locale. Quindi salvaguardando la specie vegetale salvaguardiamo anche la nostra di specie. Esatto, esattamente. E a proposito di notizie bananifere, direi che non ci fermiamo qui. Infatti in questo ultimo periodo i bananicoltori africani della zona della Tanzania, ma anche dell'Uganda, del Congo, del Ruanda, insomma tutta la parte subsahariana, avevano chiesto alla comunità scientifica internazionale che fossero aiutati perché le piante di banano di questa zona soffrivano di una malattia di cui non si conosceva bene la causa, che ora è chiara, è in realtà un parassita che attacca le radici e che fa morire la pianta o comunque non produce frutti. E quindi è di pochi giorni fa la notizia che in realtà l'ingegneria genetica potrebbe risolvere questo problema. Però sai che quando si parla di OGM i capelli si rizzano un po' a tutto il mondo. Certo, beh, ma non penso che metteranno in commercio queste banane modificate per parecchio tempo. Infatti servirebbe per risolvere, diciamo, questo problema di questa malattia che è piuttosto estesa e piuttosto grave, ecco, soprattutto per le conseguenze di carattere economico, ovviamente. E quindi l'aiuto genetico, insomma, arriverebbe da un peperone verde, di quelli dolci, ecco, i cui geni, appunto, i geni che provengono da questo vegetale, contengono una proteina che aiuta a isolare le cellule infettate, quindi ad arrestare la diffusione della malattia. Questo rimedio appunto sembrerebbe veramente efficace anche con le piante di banano. Ora il problema ovviamente, come abbiamo detto anche adesso, è convincere gli agricoltori a piantare colture transgeniche nei propri territori, però questa potrebbe essere l'unica soluzione. Ok, speriamo. speriamo che si salvino queste banane. Sì, anche perché credo che siano veramente una base della, dell'economia, soprattutto alimentare, sì, e anche d'esportazione. Va bene, hai qualche altra notizia sulle banane? No, direi che è tutto per oggi. Allora ci sentiamo la settimana prossima. Ciao Paola! Perfetto, ciao! Lui è un fenomeno, sta avendo un enorme successo. Sì, un grandissimo successo recensito dal New York Times, da Nature. Lui è un rapper. Però scientifico. Che ha deciso di trattare materia scientifica. Lui è un rap canadese, un rap di Vancouver, che addirittura vanta, diciamo, un master in letteratura rinascimentale inglese, quindi non è che... Non proprio ha un background scientifico. Certo. E poi ha un'esperienza decennale come piantatore di alberi sulle Rocky Mountains in, in Canada. Fondamentale però, per fare il rapper. Come, diciamo, hobby. Come hobby. È un rapper di grande successo, sembrerebbe. Lui si chiama Baba Brinkman e cosa ha deciso? Ha deciso di scrivere dei pezzi, perché in realtà sono 12 tracce, cui titolo del CD è La guida rap all'evoluzione. Poi ha fatto anche un sequel, perché non era contento, ha fatto il sequel La guida rap alla natura umana. Mm. E veramente ha avuto un grande successo, speriamo arrivi anche in Italia. E allora noi vi proponiamo la sua hit, abbiamo deciso, insomma, di tradurla e di farvela sentire. Natural Selection, selezione naturale. Whoever is led to believe that species are mutable will do good service by conscientiously expressing his conviction. For only thus can the load of prejudice by which this subject is overwhelmed be removed, be removed. So what you know about natural selection? Go ahead and ask a question and see where the answer gets you. Try being passive aggressive or try smashing heads in and see which tactic brings your plans to fruition. If you have an explanation in mind, then you're wasting your time, 'cause the best watchmaker is blind. Takes a certain base kind of impatient mind to explain away nature with intelligent design. But the truth shall set you free from those useless superstitious beliefs in a literal Adam and Eve and that Edenic myth, 'cause their family tree is showing some genetic drift. Take it from this bald-headed non-celibate monk with the literal... Una traduzione adesso? Sì, facciamo una traduzione, perché ovviamente avrete sentito le parole chiave, natural selection, design, intelligent design, però ovviamente è fatto tutto in slang, perché è proprio un rap tosto. E insomma parte con una citazione dall'Origine delle specie di Darwin e dice: chiunque ritenga che le specie siano mutevoli renderebbe un buon servizio se esprimesse con coscienza le proprie convinzioni, perché solo così è possibile rimuovere la grande mole di pregiudizi che sovrasta l'argomento. E quindi così lui si schiera esattamente con la posizione dei rivoluzionisti contro l'intelligenza. Assolutamente, design. Contro anche il creazionismo. Ci sono altri testi nel CD che tolgono, diciamo, ogni dubbio. Ecco, poi va avanti dicendo: cosa sai della selezione naturale? Vai avanti, poni una domanda e vedi dove ti porta la risposta. Prova ad essere aggressivo o tempestali di domande. Osserva quale tattica ha successo. Se hai una spiegazione in mente, sprechi il tuo tempo, perché il miglior orologiaio è cieco. E qua anche la citazione di Dawkins. Serve una buona dose di impazienza per liquidare la natura come disegno intelligente, ma la verità ti renderà libero da quell'inutile superstizioni. Adamo ed Eva e il mito dell'Eden, perché il loro albero genealogico mostra una deriva genetica. Lo comprendi da questo monaco calvo e celibe, lui credo, dotato, per dirla poeticamente, di una proboscide. È tempo di elevare la tua mente e celebra la tua somiglianza ai primati. I deboli e i forti, chi l'ha detto? Abbiamo vissuto nell'oscurità così a lungo, i deboli e i forti, Darwin l'ha detto, il creazionismo è tutto sbagliato. E sull'onda di questo brano vi salutiamo, ci sentiamo fra 7 giorni e vi ricordiamo. E io ricordo che sul sito www.moebiusonline.eu metteremo tutti i video e le informazioni su Brinkman, il rapper. Chiaro. Ciao! Ciao!